Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Non volevo essere superstizioso. Mi sentivo la coscienza a posto. Non avevo nulla da temere. Ma una voce interna mi diceva che nulla sarebbe stato come prima. E infatti, come da copione, la notizia arrivò con una telefonata. Sono Marco, vengo da Cagliari, sono sposato, ho 33 anni, ho due figli. Di professione faccio l'agente di commercio. Quanti di voi ammettono di essere superstiziosi? Quanti? Se lo ammettete, come dire, non cambiate canale, state lì. Però oggi, diciamo, vorrei sentire più che altro gli altri, quelli che dicono no, guarda, no, io non sono superstizioso. Però c'è quella cosa lì che proprio non riesco a trattenermi dal non fare. 349-238-6666, se avete un cellulare, uno smartphone tra le mani, se avete uno smartphone o un computer tra le mani, voi siete qui Radio 24 o altrimenti il profilo Twitter del programma, che è Voi Siete Qui R24. Ci trovate dappertutto sostanzialmente e potete raccontarci dappertutto. Quella cosa che, guarda, io davvero non sono superstizioso, eppure quella cosa lì, sarà che la faccio da sempre, sarà che me l'ha tramandata mio nonno, sarà che l'ho vista fare una volta un mio amico, ed è diventata quasi un'abitudine. Ecco, esattamente quella cosa che non è una superstizione, però. 349-238-6666. Issa ci scrive dall'Italia, ma ci racconta del Senegal. Quando ho preso la patente nel 96 in Senegal, il mio fratello maggiore mi aveva detto che il primo movimento della macchina alla mattina non deve essere in retromarcia, perché significa che significherebbe una giornata storta. Da allora vado sempre avanti, è talmente forte che lascio sempre 20 centimetri liberi davanti a me la sera quando parcheggio, per poi poter fare il movimento in avanti la mattina dopo. Mi tocco dappertutto, non ho mai fatto incidenti. Ok, Issa, tu continua a farti i tuoi 20 centimetri in avanti. Cristina, quando dico una parola insieme a un'altra persona mi tocco con il dito la punta del naso. E va bene, sì, roba come questa. Parliamo di questo oggi. 349-238-6666. Rino, compro una settimana enigmistica e una penna nuova tutte le volte che mi imbarco per un volo. Ormai ho una collezione di penne e 3 noccioli di dattero nel portafoglio. Questa è un'altra cosa però, Rino, scusami. Cioè, una cosa è che c'hai una collezione di penne di settimana enigmistica e l'altra è che c'hai i noccioli, e dai, 3 noccioli di dattero nel portafoglio. Sarà anche quella una scaramanzia. Sarà tipo... è tipo la castagna che tiene in tasca per il... Filippo ce l'ha, contro il raffreddore, giusto? È chiaramente scaramanzia quella, non può esserci un altro motivo. Valentina, il sale non si passa di mano in mano, quando si rovescia si lanciano 3 pizzichi di sale dietro la spalla destra. Tra l'altro, se non sapete da dove arriva questa usanza, dopo ve la spieghiamo. Anzi, dopo ve ne spieghiamo di più di un'usanza, cioè del perché, da dove arrivano certe scaramanzie, certe superstizioni e perché vengono fatti certi gesti come lanciare il sale dietro la spalla sinistra. Sinistra, non destra, però, Valentina. 349-238-6666. La storia di Marco parla di una cosa che ha a che fare con la superstizione, nel senso che lui è convinto che una cosa accada perché ci sono un incrocio di date e di numeri ben precisi, poi però in realtà a un certo punto apre gli occhi e fortunatamente va ben oltre. Era un 15 febbraio, come tanti, forse per tutti, ma non per me. Il mese volgeva al termine e tremavo al pensiero che il mese bisestile di un anno bisestile mi dovesse ancora riservare qualche sorpresa. Prima o poi sarebbe successo, lo sapevo. 4 anni prima, nel precedente anno bisestile, proprio in febbraio, arrivò una lettera della polizia stradale che annunciava il ritiro della mia patente per eccesso di velocità. Ma quel 15 febbraio era diverso. Non volevo essere superstizioso, mi sentivo la coscienza a posto, non avevo nulla da temere, ma una voce interna mi diceva che nulla sarebbe stato come prima. E infatti, come da copione, la notizia arrivò con una telefonata. Era mio padre, con il tono delle grandi occasioni. Era arrivata a casa loro, la mia vecchia residenza, una lettera dal distretto militare, in cui si annunciava che dovevo partire entro 3 settimane per svolgere il servizio di leva. Io vivevo a Cagliari, il mio paese è Muravera, che è un paese che dista da Cagliari circa 60 km, 70 km. Mediamente ci si impiega 2 ore in pullman per andare. Frequentavo l'università a Cagliari. Controllai le carte. Il rinvio per motivi di studio era stato fatto, il numero di esami corretto. Era senz'altro uno sbaglio, un errore della burocrazia, o peggio uno scherzo di mio padre per spronarmi agli studi. E invece era tutto vero. Avevo mal interpretato le regole per il rinvio e non era stato accettato. Maledissi me stesso e la mia accidia per non avere sostenuto con successo quei 3 esami all'università. Fatto sta che di partire a fare il militare non avevo nessuna voglia. E nonostante mio padre avesse alle spalle 30 anni di onorata carriera in aeronautica, optai per il servizio civile. Mi mandarono in una casa famiglia per ragazzi disabili. Il mio turno era quello notturno. Cominciavo alle 7 di sera e me ne andavo il mattino dopo, un po' prima che tutti gli ospiti si risvegliassero. Non avevo grandi mansioni o grandi compiti. Dovevo assistere l'operatore durante il turno di notte, aiutarlo nelle sue mansioni e parlare con i ragazzi, cercando di tenerli un po' su, fare presenza, insomma. Non dovevo né cambiare pannolini né intervenire in caso di crisi convulsive, anzi, mi era stato proibito di svolgere quelle mansioni. Dormivo su un divano in una stanzetta e quando andavo via sistemavo le mie cose in un armadietto. Il primo mese fu durissimo, mi sentivo un pesce fuor d'acqua. Cominciai a pensare che questa sarebbe stata l'esperienza più brutta della mia vita. Di conseguenza, tutto cominciò a girare per il verso sbagliato. All'università non riuscivo più a concentrarmi, con le ragazze ero diventato un disastro. Quando tornavo a casa dai miei genitori non parlavo più. Almeno mi rimanevano gli amici, loro non ti abbandonano mai quando ne hai veramente bisogno. Il culmine della mia tristezza la raggiunsi quando un ragazzo down mi diede uno schiaffone perché lo sgridai accusandolo di spegnere in continuazione la TV mentre gli altri la guardavano. Capii che così non potevo più andare avanti. Si dice che una persona riesca a dare il meglio di sé quando si raggiunge il fondo e io avevo raggiunto il mio baratro personale e decisi di ribaltare la situazione in meglio. Dato che dovevo rimanere dentro la casa famiglia durante la notte e in linea di massima tutti gli ospiti dormivano, ripresi a studiare per gli esami dell'università. C'erano una pace e una tranquillità mai viste. Ho visto recentemente una persona con cui avevo lavorato alla casa famiglia. Anche lei adesso aveva cambiato lavoro. Si ricordava ancora di me e discutemmo di quello che successe durante quei giorni. Ho rincontrato diverse persone anche nel passato, però non ho mai approfondito la loro conoscenza e ci siamo un po' persi come si perdono le persone nel tempo. Diedi più esame durante quei 9 mesi vissuti in casa famiglia che durante i miei 3 anni precedenti all'università. Con il passare del tempo mi integrai con l'ambiente e cominciai a pensare che questa non era l'esperienza peggiore della mia vita, anzi. Capii quanto siamo fortunati noi che possiamo svolgere una vita normale e decisi di non sprecare il mio tempo in cose e pensieri inutili. Abbandonai inutili superstizioni legate agli anni bisestili, in fondo siamo noi gli autori dei nostri destini e non le contingenze temporali. Insomma, tutto stava andando per il meglio, tant'è che anche con le ragazze le cose ricominciavano a girare. E verso la fine del servizio civile conobbi Barbara, mia moglie e madre dei miei 2 bambini. Indovinate quando lei rimase incinta, al successivo anno bisestile. Ma questa è un'altra storia. Superstizioso io? Ma figurati, io non sono superstizioso. Il negare di essere superstiziosi, se dovessimo fare una graduatoria di quello che si nega, è secondo probabilmente solo al negare di essere invidiosi. Nessuno ammette "io sono invidioso", però chi non ha mai provato invidia almeno una volta. Nessuno riconosce di essere invidioso. Ecco, con le superstizioni è quasi lo stesso. Nessuno afferma con orgoglio di essere superstizioso. Eppure quasi tutti abbiamo delle superstizioni, delle scaramanzie inconfessabili. E tanto più sono personali, tanto più sono sofisticate. Il gatto nero che attraversa la strada, il colore viola in teatro, il cappello e le chiavi sul letto, il sale che non si passa da mano a mano ma lo devi appoggiare a tavola, queste sono le superstizioni mainstream, no? A uso e consumo di tutti. Poi ci sono quelle generazionali, Quando ero piccolo eravamo superstiziosi alla vista delle suore, ad esempio, oppure della 500 gialla. E poi ci sono quelle regionali, che so io, le civette in certi posti portano fortuna, in altri portano sventura. Le superstizioni a volte diventano capricci di esibire, tipo De Rossi, il calciatore della Roma, che gioca con una manica lunga e una corta, oppure sono dei vizi d'abitudine, tipo la sequenza maniacale di gesti che fa Rafa Nadal, no? Che si sposta l'elastico delle mutande tutte le volte che aspetta la battuta dell'avversario. Per stare sempre in zona mutande, tra l'altro, c'è chi usa mutande ormai completamente slabbrate in occasioni importanti, perché sai com'è, le portavo anche quella volta e era andata alla grande. Oppure c'è Trapattoni che cospargeva di acqua santa la panchina dell'Italia e lì stava a metà tra fede e superstizione. Un po' più verso la superstizione che verso la fede. E poi ci sono superstizioni ancora più nascoste, più segrete. Io ho un amico, Annibale Pavone, è un attore che lavorava in teatro con me. Tutte le sere, prima dello spettacolo, doveva chiudersi in bagno e giocare 4 partite a Snake, il videogioco dei telefonini Nokia, quelli vecchi. Non 2, non 5, non in camerino, non al bar, ma 4 partite nel bagno. Io invece, quando entravo in scena, il primo gesto che facevo era sempre controllare che avessi la cerniera dei pantaloni tirata su. E non era un controllo, in realtà, era superstizione. Ma cose tipo: se riesco a non toccare i freni col motorino fino all'università, prendo 30 all'esame. Cose come queste. Chi di voi non ha mai preso sul serio o messo in atto per davvero una superstizione così assurda? Quella di Marco, in realtà, è una superstizione che verte sui numeri. Il 15 febbraio dell'anno bisestile. Dunque, il 15 è il giorno dopo San Valentino, il giorno in cui ci risvegliamo dal sogno della festa degli innamorati e torniamo alla realtà. E già le cose partono male. Febbraio è il mese pecora nera tutti gli anni, figuriamoci in un anno bisestile. E magari era il 2012, quello della profezia dei Maya, a una sola settimana di distanza dalla data palindroma che si legge uguale in entrambi i lati, 21/02/2012. Una concomitanza di dettagli che Marco ha letto come premonizioni che riguardavano esattamente lui. Ma se la lettera del Ministero della Difesa fosse arrivata in una data qualsiasi, che so, poniamo il 13 luglio 1996. Attenzione, perché se uno ci pensa bene, il 13 luglio 1996 non è una data qualsiasi. Prova a fare la somma. 1 più 3, più luglio che è il 7, più 1, più 9, più 9, più 6, fa 35. Se 35 non ti dice niente, fai 3 più 5, fa 8. 8 che cos'è? È il simbolo dell'infinito messo in verticale. Qualcosa vorrà dire. E il mio nome, ad esempio, Matteo, ha una doppia, esattamente come il mio cognome, Caccia. E hanno 6 lettere entrambi. Ho un nome parallelo, le linee parallele sono quelle che non si incontrano mai. Insomma, un motivo lo si trova sempre. Ma tanto non mi riguarda, io non sono superstizioso. Un giorno mi succede questa cosa, mi chiama mia sorella, mi dice che è a Milano e che ha una cosa per me, se me la può portare. Io non ci sono in quei giorni, ma tanto le chiavi, dice lei, te la lascio a casa. La saluto e me ne dimentico subito dopo. Il giorno dopo, dopo un viaggio d'inferno con treno in ritardo di ore, ma questo è abbastanza normale, torno a casa. Arrivo fradicio perché si è messo a diluviare appena sceso dal treno. Giro la chiave, entro in casa, accendo la luce e salta a salvavita. Lo rimetto a posto smanettando al buio. Quando finalmente torna la luce vado in bagno ad asciugarmi e capisco tutto. Sul lavandino c'è un biglietto di mia sorella che dice: erano anni che aspettavo questo momento e finalmente ce l'ho fatta, c'è scritto. Alzo gli occhi. Sopra lo specchio, dove io avevo da sempre il filo nero che pendeva e la lampadina attaccata, lei mi ha montato un piccolo lampadario. Io, come tutti del resto, non sono per niente superstizioso. Ho sempre pensato che avere la lampadina che spunta dal muro senza lampadario in bagno fosse il giusto prezzo da pagare per avere risolti i piccoli problemi di tutti i giorni, e quel giorno non andò più così. Yeah. Tenere 50 lire nel portafoglio, non pestare mai le piastrelle nere se la pavimentazione è bianca e nera, ce n'è per tutti oggi. 349-238-6666. Per Marco invece era molto semplice, era un anno bisestile, era il 15 febbraio e le cose brutte succedevano sempre quel giorno lì. Un po' sono successe, ma alla fine forse invece un po' no. Pronto Marco? Ciao Matteo. Ciao, come stai? Abbastanza bene, non mi lamento. Dove ti trovi? In questo momento sono vicino a Olbia per lavoro. Ma in giornata ci vai? Sì, sono andato stamattina e sto tornando adesso. Quindi ti fai tutta la Sardegna? Più o meno, sì. Perché la parola chiave della tua presentazione era: per fare 70 km ci metto 2 ore di autobus. Mi sembrava diciamo una chiave di lettura non del tuo racconto, ma un po' della tua vita. Di fatto tu viaggi tutto il giorno, giusto? Sì, io sono agente di commercio, quindi comunque diciamo che il mio lavoro è viaggiare, stare in strada, parlare con le persone, parlare con gli esercenti, con i commercianti, questo. Oggi sono a Olbia perché in pratica ho acquisito un nuovo prodotto da vendere. Ah, quindi è una festa un po' oggi. È una festa se funzionerà questo prodotto. Ok, ci puoi dire, non dirci il nome, però dimmi di cosa tratta, che cos'è, uno shampoo, una roba meccanica, un computer? È un aperitivo. Un aperitivo. Ma è un nuovo prodotto che è stato lanciato da poco sul mercato o è semplicemente nuovo per te? No, allora, tutti e due. È nuovo per me perché generalmente io ho sempre trattato il settore pubblicitario e al tempo stesso è un nuovo prodotto perché è uscito l'anno scorso a fine stagione estiva, quindi parliamo di fine agosto, okay. Fine settembre. È relativamente nuovo, insomma. È relativamente nuovo. Senti, insomma, c'è un sacco di lavoro da fare. Per cavalcare un qualche luogo comune, dimmi che in Sardegna adesso c'è un giorno splendido e ci sono 30 gradi. Registro, okay. Ma per fortuna non è così, quindi i luoghi comuni ogni tanto li smentiamo. Le superstizioni sono un po' dei luoghi comuni alla fine, no? Cioè sono una cosa culturale che ci rimane addosso, perché l'anno bisestile ci dicono attenzione, gli anni in cui ci sono 2 giorni in più, sono 2 giorni in più? Sono 2 o 3 giorni in più? L'anno bisestile quanti? Uno. Perfetto, non avevo beccato né. Scusa Filippo, ti vedo sconvolto. Insomma, gli anni in cui c'è un giorno in più sono anni terribili. Tu un pochettino l'hai cavalcata questa roba, poi invece no, perché mi sembra che ti siano successe cose belle, giusto, da lì in avanti. Beh sì, direi di sì, assolutamente. Diciamo che tutto nacque nel primo anno bisestile, dove ricevetti una multa per eccesso di velocità. Da lì in poi sono sempre rimasto un po' sul chi va là. Ti dirò che in realtà non sono una persona particolaramente scaramantica. Certo, ma chi di noi? Ma chi di noi, esatto. Di noi? Però essendo successo il primo anno con la multa, hai cominciato a crederci. Marco, dimmi invece, dopo quanto ti sei laureato in quel periodo? Io mi sono laureato l'anno successivo, quindi parliamo del 2005. In che cosa ti sei laureato? In lettere moderne. Scusami, quindi diciamo, tu ti sei laureato in lettere moderne, adesso sei un agente di commercio. Qual è il link tra queste due cose? Cioè, come ci sei arrivato a fare l'agente? Non c'è un vero e proprio link. Diciamo che abitando in Sardegna bisogna cercare di fare quello che c'è. Il lavoro è quello che è, quindi io ho abbandonato l'idea dell'insegnamento praticamente, essendo comunque laureato in lettere. Diciamo che uno sbocco naturale probabilmente, certo, sarebbe l'insegnamento di italiano, storia, geografia. Siccome c'era tanta concorrenza, ovvero sia tutti quelli che si lavoravano in lettere volevano tutti insegnare, quindi ho detto eliminiamo la concorrenza, facciamo un'altra cosa. E andiamo dove c'è più spazio. È una logica di mercato che non fa una grinza. Marco, ti ringrazio per la storia. Tu sei sempre in macchina, quindi continuerai ad ascoltarci, giusto? Sì. Bravo, allora fai buon viaggio e buon rientro a casa. Grazie Matteo, ciao Marco, a tutti. Ciao, in bocca al lupo. Ciao ciao ciao. 349-238-6666, ci scrive Zana, nata a Sarajevo, mai tenere il pane rovesciato sul tavolo, quindi vale là la stessa cosa che vale qua. In realtà quindi sono un po' globalizzate le superstizioni. Voi siete qui. Sta facendo una cosa che non è mai visto fare in una foto che ci è arrivata, Marco. Qui a Voi Siete Qui, trovate la foto come al solito sul sito della radio, alla nostra pagina, Voi Siete Qui. Ha in mano un tappo. L'ho presa dalla parte sbagliata, aspetta che ricomincio. Allora, la cosa che sta facendo le bolle di sapone soffiandoci con la bocca in questo tappo rovesciato con l'asta. Vabbè, ce l'avete presente, inutile che la scriva, sto facendo fatica a descriverla, ma è quella roba lì, è il tappo che apri, giusto Pietro la Corte, lo rovesci, l'asta, la circonferenza, ci soffi dentro, fa le bolle di sapone. ce l'ho fatta, ci ho messo un quarto d'ora ma sono riuscito. Lo sta facendo tra l'altro in un posto buissimo, c'è una notte nera e molto cupa intorno a lui e lui ha proprio la bocca chiusa a soffietto per soffiare e fare le bolle. Superstizione, sostantivo femminile. Insieme di credenze o pratiche rituali proprie di società antiche, specie legate a culti pagani e oggi di ambienti culturalmente arretrati, fondate su presupposti magici e soprannaturali. Dal punto di vista delle grandi religioni, ogni credenza o pratica che sia in disaccordo con la religione costituita o ne alteri l'equilibrio interno. Etimo dal latino superstitio superstitionis, derivato di stare, stare, col prefisso super, sopra, opposto di religio. Data secolo XIV. Sul profilo Twitter di questo programma, che voi siete qui R24, ma anche sul mio se avete voglia, che è Matteo Caccia, molto semplicemente, Tommy scrive: non sono superstizioso, ma dalla porta centrale dell'università non sono mai passato, altrimenti non ci si laurea. Ne sono arrivate diverse di messaggi che hanno a che fare con l'università. Lì è proprio storia, cioè che c'è una parte di che è sedimentata in quel luogo, di leggenda, di cultura sostanzialmente popolare legata a quel ruolo, a quel luogo, per cui se fai una cosa non succederà una cosa, se ne fai un'altra succederà qualcos'altro. Ne è arrivato un altro di messaggio, eccolo qua. Ale da Senigallia: un anno fuori corso per ogni anello percorso della Torre di Pisa, credenza granitica, quindi immagino Università di Pisa. Ma mi ricordo anche un amico che è stato cadetto all'Accademia Navale di Livorno, che diceva che non potevi aprire lo spadino, la spada del cadetto, sapete, i cadetti hanno una spada, l'ho scoperto quando il mio amico lo faceva, e non puoi sfilare la spada dal fodero, non si chiama fodero, c'ha un altro nome. Margherita, ti prego. Sono sicuro che non si chiama fodero, ha un altro nome quella roba lì. Insomma, non la puoi sfilare perché altrimenti non finisci mai l'accademia. E poi c'era una credenza legata a questa credenza che la può sfilare solo una ragazza nel caso in cui solo che poi tu con lei ci faccia delle cose. 349-238-6666. Prima di uno spettacolo devo sempre fare la pipì, se no non sono sicuro di una grande performance. E poi Zana da Sarajevo mi scriveva un'altra, oltre a quella del pane rovesciato: quando si augura buona fortuna si lancia un bicchiere d'acqua dietro la persona che esce dalla porta d'ingresso della casa, superstizione della mia famiglia nata a Sarajevo. E quando invece feci un trasloco con un ragazzo che mi diede una mano, che era moldavo, mi disse: quando lasci una casa devi lasciare la scopa della casa all'interno della casa per quello che la prenderà dopo, non so perché ma porta bene. Abbiamo fatto, visto che prima sono arrivate un sacco di queste credenze, no? Quella dello specchio, del pane rovesciato, del lanciare il sale dietro le spalle. Non sai mai da dove arrivano. Ebbene, abbiamo trovato la motivazione. Rompere uno specchio. Rompere uno specchio causa 7 anni di sfortuna. Quando eravamo bambini ci si diceva che questa superstizione derivava dal fatto che nel Medioevo comprare uno specchio sarebbe costato a una persona media 7 anni di lavoro. I romani furono i primi a creare specchi fatti di vetro. Credevano inoltre che la loro invenzione avesse il potere di rubare un soffio dell'anima alla persona che l'avrebbe usata. Se il riflesso di una persona fosse apparso distorto, allora la sua anima sarebbe stata corrotta e intrappolata. Fortunatamente i romani credevano anche che l'anima potesse essere rinnovata dopo 7 anni. I gatti neri. Mentre la maggior parte delle culture occidentali considerano i gatti neri portatori di cattiva sorte, molte aree del Regno Unito li considerano animali fortunati. Infatti sembra che i gruppi pagani di queste zone li considerassero portatori di fortuna da così tanto tempo che i primi cristiani cominciarono a diffondere storie sul fatto che fossero malvagi. In particolare, questo genere di storie legavano i gatti alle streghe, il che è molto coerente visto che i cristiani accusavano i pagani di essere delle streghe. Camminare sotto le scale. Questa è sempre sembrata in effetti la più razionale delle superstizioni comune. Dopotutto, se cammini sotto una scala, hai abbastanza possibilità che qualcosa ti cada sulla testa dalla cima. Ma, in effetti, non c'è alcuna ragione per considerare la cosa in sé sfortunata. Pare che gli antichi cristiani considerassero la forma triangolare come il sacro segno della Trinità. Quando una scala era spinta contro un edificio, formava l'immagine di un triangolo e quindi, camminandoci sotto, stavi di fatto spezzando il triangolo. Per questo, chi passava sotto una scala veniva etichettato come vicino a Satana. Lanciarsi il sale dietro le spalle. La maggior parte delle persone sa che storicamente versare il sale porta sfortuna, soprattutto perché sia ritenuto così importante in tempi antichi. C'è anche una storia che dice che Giuda avrebbe versato del sale durante l'ultima cena, rendendo l'atto ancora più sfortunato. Detto questo, sembra strano che per rimediare alla sfortuna si debba gettare il prezioso sale dietro la spalla sinistra, ma c'è una ragione per questo. Nei tempi antichi è stato spesso detto che il diavolo è sempre seduto proprio dietro la spalla sinistra. Quando hai sprecato qualcosa di prezioso come il sale, è per tenerlo a bada, gettando sale nei suoi occhi o per placarlo dandogli un'offerta di sale che lo fai. Che si stia cercando di ferire il diavolo o comprarne i favori, sembra che gettare il sale nella sua direzione sia un buon modo di scongiurare l'influsso malefico. It's bigger, it's bigger than you. Distance in your eyes. Oh no, I've said too much. I set it up. Ho fatto l'errore l'altro giorno di dire che stavamo decidendo la data della festa finale di Voi Siete Qui, del live finale, quello in cui tiriamo un po' le fila della stagione e ci si guarda in faccia. Dicevo, ho fatto l'errore perché non l'abbiamo ancora deciso e sono arrivati messaggi che cominciavano a dire: non fatelo quel giorno perché c'ho il matrimonio di mia sorella, non quella settimana perché sono in vacanza, non quel giorno perché ho il concerto di Jovanotti. Ne sono arrivati tipo 3 o 4 sul concerto. Pure Alessandro Milan stamattina mi ha detto: no, vengo quest'anno, perché non sono mai venuto. No, vengo, però ecco, non il 20 che c'ho il concerto di Jovanotti. Tra l'altro è il 19 e il 20, noi mi sa che siamo proprio intorno a quei giorni lì, ho questa sensazione. Ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile anche questa puntata, che sono Tiziano Bonini, Filippo Aureggi, Margherita Ina e Mauro Pescio. Ringrazio anche quello che mi ha scritto che il fodero della spada si chiama guaina o guaina, da cui sguainare la spada. Grazie soprattutto a Marco, la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso sulla mappa. Mi chiamo Renato, sono della provincia di Vicenza, la storia di domani è la mia e parla di un'inversione dei ruoli. Questa è la mia storia ed io sono qui. Voi siete qui.